Sezione 14 di Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Simona Perego. Nel 21 d'aprile dell'anno 2630 dalla Fondazione di Roma. Te, redimito di fior purpurei, April te vide sul colle emergere dal solco di Romolo torva riguardante sui selvaggi piani. Te, dopo tanta forza di secoli, April irraggia, sublime, massima, e il sole l'Italia saluta, te, flora di nostra gente, o Roma. Se al Campidoglio non più la Vergine tacita sale dietro il pontefice, né più per via sacra il trionfo piega i quattro candidi cavalli, questa del foro tuo solitudine ogni rumore vince, ogni gloria. E tutto che al mondo è civile, grande, augusto, egli è romano ancora. Salve, Dea Roma! Chi disconosceti cerchiato ha il senno di fredda tenebra, e a lui nel reo cuore germoglia torpita la selva di barbarie. Salve, Dea Roma! Chinato ai ruderi del foro, io seguo con dolci lacrime e adoro i tuoi sparsi vestigi, patria, diva, santa genitrice. Son cittadino per te d'Italia, per te poeta, madre dei popoli, che desti il tuo spirito al mondo, che Italia improntasti di tua gloria. Ecco, a te questa, che tu di libere genti facesti nome uno, Italia, ritorna e s'abbraccia al tuo petto, affisa nei tuoi d'aquila occhi. E tu dal colle fatal pel tacito foro le braccia porgi marmoree. Alla figlia liberatrice, additando le colonne e gli archi che nuovi trionfi aspettano, non più di regi, non più di cesari, non più di catene attorcenti, braccia umane sugli eburnei carri. Ma il tuo trionfo, popol d'Italia, sull'età nera, sull'età barbara, sui mostri onde tu con serena giustizia farai franche le genti. O Italia, o Roma, quel giorno, placido, tuonerà il cielo sul foro e cantici di gloria, di gloria, di gloria correranno per l'infinito azzurro. Fine della sezione 14.